canzoni, dall'oppressione canto la mia liberazione, dall'oppressione ora dolor de Jahvé al suo amore per me, dolor de Jahvé al suo amore. Canto passato tra le case nel Mar Rosso, già redente. Siamo schiavi di nessuno, siamo suoi figli. Figli di Yah. Non siamo schiavi. No, no. Siamo suoi figli. Figli di Yah. Non siamo schiavi di nessuno, siamo suoi figli. Figli di Yah. Non siamo schiavi. Salvati con il sangue dell'agnello, ci ha guidati con la nube. Ascoltato quando gridavamo a noi, è arrivato la nostra terra. Siamo suoi figli, non siamo schiavi. Siamo suoi figli, figli di Yah. Non siamo schiavi di nessuno, siamo suoi figli, figli di Yah. Non siamo schiavi, no, no. Siamo suoi figli, figli di Yah. Non siamo schiavi di nessuno, siamo suoi figli, figli di Yah. Non siamo schiavi.